sabato 12 maggio, The Frag, Roma urla fest, pace armata, filo spinato, anime incazzate e una piccola grande radio. Roma urla fest, sabato 12 maggio, Roma urla!